dove corri, o oh padre? Almen paventa qualche mortale inciampo. Non è più Tobia, non seguitarmi. E vana la cura tua. Più supportar non posso l'astro ardente dolor che mi trapassa penetrando pungente dalle pupille al cor quel suo amaro. Genitore, una sol goccia ancora soffri ti ostilli ne tuoi lumi e questo troppo acerbo dolor. Lasciami, o oh figlio, lasciami viver cieco, o oh, se persisti ne sapere ch'io destio di risanarmi. Di dol m'ucciderai. Misero, che farò? Dubbio, che fai? Tu me l'inspiri. Oh Dio, che pena! Oh Dio, che insoffribil martir! Caddero i panni. Padre libero sei. Fine agli affanni. Come? Schiude l'oceano. Io son in porto. Stelle, che fuoco. Eterno Dio, son morto. Dove? O ciel che avvenne. Appena monde le mie pupille. Di più funesta cecità ne ferì del primo raggio d'abbaglio lo splendore. Un'altra volta disserà il ciglio. Io, mio padre, i tuoi lumi.